Video game. Per te che hai cliccato, ecco i primi due livelli del gioco e ti ricordo che per sconfiggere il mostro di fine livello dovrai risolvere i primi due livelli. Solo così potrai capire la domanda finale, la cui risposta ti permetterà di portare a casa il sensore Kinect, Kinect Adventures e un altro gioco offerto da Microsoft. Livello 1. Per gli inglesi significa per. Livello 2. Il mese della mamma. Per il mostro di fine livello ti aspetto durante 2024, sabato prossimo alle 15:30. Game over.